Il freddo penetrava anche sotto le pelli di Bisonte, si insinuava attraverso il cappotto e il vestito di lana di Laura, attraverso le due sottovesti di flanella, i mutandoni e le due paia di calzettoni. Nonostante la lanterna cominciò ad avere freddo ai piedi e alle gambe, le doleva tutta la faccia per lo sforzo di stringere i denti e ora cominciava anche a sentire una punta di dolore acuto alle tempie. Almanzo le tirò sulle coperte e gliele rimboccò bene dietro le braccia. Freddo? No, rispose Laura. Era tutto quello che riusciva a dire senza che le cominciassero a battere i denti. Non era vero, naturalmente, aveva un gran freddo, ma aveva capito che la domanda era per sapere se ce la faceva a sopportarlo. Del resto, che altro potevano fare se non andare avanti? Laura sapeva che anche lui aveva freddo. Si fermarono di nuovo e Almanzo scese a liberare il muso dei cavalli. I campanelli ripresero a tintinnare, ma quel suono ora le pareva impietoso e crudele come il vento. Il velo sugli occhi faceva sembrare tutto buio, ma Laura sapeva che il sole brillava basso sull'orizzonte sopra la prateria bianca. Almanzo risalì sulla slitta. Tutto bene? Sì. Devo fermarmi a togliere il ghiaccio ogni 2 miglia, se no non ce la fanno. Laura si sentì mancare. Dunque avevano fatto solo 6 miglia finora, ne restavano ancora altrettante. Ah! Ripartirono di corsa e di nuovo il vento fu come una lama. Nonostante tutti i suoi sforzi, era scossa da un tremito convulso. Non riusciva a fermarlo, neppure premendo le gambe l'una contro l'altra, più forte che poteva. La lanterna sotto le coperte non sembrava servire a nulla. Il dolore alle tempie era aumentato, un chiodo che le perforava la testa e ora sentiva anche un grumo di dolore da qualche parte al centro del corpo. Le parve che fosse passato molto tempo prima che i cavalli rallentassero di nuovo. Almanzo scese, prima Prince, poi Lady rialzarono la testa e lui tornò sulla slitta. I suoi movimenti erano lenti, goffi. Tutto bene? Le chiese. Sì, si stava abituando al freddo, non faceva più così male. C'era solo quel grumo di dolore al centro del suo corpo, ma anche quello era più attenuato ora. Il rumore del vento, i campanelli, il fruscio dei pattini della slitta si erano fusi in un unico suono monotono, costante, perfino quasi gradevole. Si accorse che Almanzo era sceso di nuovo dalla slitta per levare il ghiaccio dal muso dei cavalli, ma le pareva tutto un sogno. Tutto bene? Le chiese. Lei si limitò ad annuire. Era meno faticoso che rispondere. Laura! Esclamò lui, afferrandola per le spalle e scuotendola. Quella scossa le dette fastidio, le fece sentire di nuovo la morsa del gelo. Hai sonno? Un po'. Non dormire. Mi hai sentito? Non devi addormentarti. Non mi addormento, disse lei. Sapeva perché aveva detto così. Se si fosse addormentata con quel gelo sarebbe morta assiderata. I cavalli si fermarono di nuovo. Almanzo chiese: Ce la fai? Sì, disse Laura. Lui scese a liberare il muso dei cavalli. Quando risalì sulla slitta, le disse: Non manca molto ormai. Sapeva che voleva sentirle dire qualcosa e rispose: Bene. Benché tenesse gli occhi spalancati, a tratti le veniva addosso una sonnolenza, come una lunga ondata tiepida. Allora scuoteva la testa e inghiottiva grandi boccate d'aria ghiacciata e lottava per restare sveglia, ma poi arrivava un'altra ondata e poi un'altra ancora. Quando era troppo stanca per continuare a combattere, la voce di Almanzo la aiutava. Tutto bene? Sì, rispondeva lei, e per un istante si svegliava, sentiva i campanelli della slitta, il fischio del vento, e poi veniva un'altra ondata. Ci siamo, disse lui. Sì, rispose. Poi, di colpo, si accorse che erano alla porta di casa, quella sul retro. Lì il vento non era così forte, perché c'erano gli edifici dall'altra parte di Second Street a fare da barriera. Almanzo sollevò le coperte, lei cercò di scendere dalla slitta, ma era troppo irrigidita e non riuscì ad alzarsi. La porta si spalancò e mamma venne a prenderla esclamando: Oh signore, sei congelata! Temo che abbia molto freddo, sì, disse Almanzo. Porta al riparo quei cavalli prima che congelino, disse papà, la portiamo dentro noi. I campanelli schizzarono via, sorretta da papà e mamma, Laura entrò incespicando in cucina. Toglile le scarpe, Carrie, disse mamma, levandole il velo e il cappuccio di lana. Il ghiaccio del fiato li aveva fusi in un unico blocco, sicché vennero via insieme. Hai la faccia rossa, disse mamma con sollievo. Grazie a Dio non è bianca, vuol dire che non sei assiderata. No, sono solo intorpidita, disse Laura. Non aveva neppure i piedi congelati, anche se non sentiva quasi le mani di papà che li massaggiavano. Ora che era lì al caldo, cominciò a tremare da capo a piedi e a battere i denti. La fecero sedere vicino alla stufa e mamma le preparò un infuso bollente di zenzero, ma lei non riusciva a scaldarsi. Aveva sofferto il freddo dal momento in cui era uscita dal letto quel mattino. Nella cucina dei Brewster il suo posto a tavola era il più vicino alla finestra e il più lontano dalla stufa. Poi aveva dovuto andare a scuola col vento che le soffiava addosso e le si infilava sotto le gonne, e anche a scuola per tutta la giornata aveva avuto freddo. E poi c'era stato quel viaggio terribile, ma non le importava più nulla perché ora era a casa. Hai rischiato grosso, Laura, disse papà con la faccia seria. Non ho capito che Wilder aveva deciso di partire finché non è partito, e allora ho pensato che si fermasse dai Brewster. C'erano 40 sotto zero quando quel pazzo ha attaccato i cavalli, dopodiché il termometro è gelato. Ma la temperatura ha continuato a scendere, non si può sapere a quanto è arrivata ora. Tutto è bene, quel che finisce bene, pa, disse Laura con una risata tremante. Aveva l'impressione che non sarebbe mai più riuscita a scaldarsi davvero, ma era così bello essere lì a cena, nella cucina di casa, così bello potersi addormentare serena nel suo letto. Quando si svegliò la mattina dopo, capì subito che il tempo era migliorato. A colazione papà disse che la temperatura era salita a meno 25, il peggio era passato. In chiesa quella domenica Laura pensò che era stato sciocco da parte sua lasciarsi spaventare e abbattere tanto. Mancavano solo 2 settimane ormai e poi sarebbe tornata a casa definitivamente. Quel pomeriggio, mentre Almanzo la riportava dai Brewster, Laura lo ringraziò per essere venuto a prenderla anche quel fine settimana. Non c'è bisogno che mi ringrazi, disse lui. Sapevi che l'avrei fatto. No, non lo sapevo, disse Laura in tutta sincerità. Ma perché mi prendi? Disse Almanzo. Credi che io sia il tipo da lasciarti dai Brewster quando so che hai tanta nostalgia di casa solo perché a me non me ne viene niente? No, io. Si interruppe. La verità era che non si era mai chiesta che tipo di persona fosse Almanzo. Era tanto più grande di lei. Aveva una concezione propria. Era un adulto. A dire tutta la verità, continuò Almanzo, ero in dubbio se correre il rischio. Per tutta la settimana ho pensato che sarei venuto a prenderti, ma quando ho visto il termometro sono stato lì lì per decidere altrimenti. E poi? Chiese Laura. Beh, partendo mi sono fermato di fronte a Fuller per dare un'occhiata al termometro. Il mercurio era sceso tutto nel bulbo, dunque c'erano meno di 40 sotto zero e il vento rinforzava. Proprio in quel momento arriva Cap Garland. Mi ha visto lì, pronto per venire a prenderti, che guardava il termometro. È venuto a dare un'occhiata anche lui e. Beh, lo sai com'è, no? Ti guarda con quell'allegria sempre. Beh, mentre entrava da Fuller si è girato e mi ha detto: Dio odia i codardi. Allora è stata una specie di sfida, disse Laura. No, non è stata una sfida, rispose Almanzo. Mi sono detto soltanto che Cap aveva ragione. Visita del sovrintendente. Devo affrontare un giorno alla volta, si disse Laura, entrando in casa Brewster. Nulla là era mutato. La signora Brewster non parlava, Johnny frignava in continuazione, il signor Brewster passava più tempo possibile nella stalla. Quella sera, mentre studiava, Laura fece 4 segni sul quaderno, uno per ogni giorno della settimana da lunedì a giovedì. Prima di andare a letto avrebbe tirato una riga sul segno del giorno. Finiti i segni, le sarebbe rimasta una settimana sola. Faceva di nuovo più freddo di giorno in giorno, ma non c'erano vere tempeste. Le notti passarono quietamente, anche se Laura era sempre sul chi vive e si svegliava spesso. Ogni sera cancellava un segno. Le sembrava che il tempo passasse più in fretta, ora che per tutto il giorno aspettava di tirare quella riga. Mercoledì notte sentì il vento urlare senza posa e la neve picchiettare contro i vetri. Pensò con terrore che magari l'indomani non ci sarebbe stata scuola, ma la mattina dopo c'era il sole. Un sole spento che non dava calore. Il vento faceva correre onde di neve sulla prateria, ma Laura era così contenta che uscì di buon grado, sebbene le toccasse di nuovo battere tutta la strada fino a scuola. Anche quel giorno, dalle fessure entravano folate di neve. Laura fece spostare gli alunni accanto alla stufa, ma a poco il calore del fuoco riuscì a vincere il gelo della stanza, finché, quando fu il momento dell'intervallo, si accorse che neppure passando dietro il banco di Clarence vedeva più la nuvoletta del suo fiato. Ricominciando la lezione, disse: Ora la stanza è più calda, potete tornare al vostro posto. Si erano appena seduti tutti che si sentì bussare alla porta. Chi poteva essere? Dalla finestra non si vedeva nessuno. Laura andò ad aprire. Sulla soglia c'era il signor Williams, il sovrintendente scolastico della contea. Legati all'angolo della baracca c'erano i suoi cavalli con la coperta sulla groppa, ma quella slitta non aveva campanelli sui tiranti e la neve soffice doveva avere attutito lo scalpiccio degli zoccoli. Ecco perché non lo aveva sentito arrivare. Era giunto il momento della verifica del suo lavoro di maestra. Per fortuna erano tutti seduti al loro posto. Il signor Williams sorrise cordialmente quando Laura lo fece accomodare alla cattedra. Vicino alla stufa i ragazzi stavano tutti con la testa china sui libri, ma Laura percepiva la loro tensione. Quanto a lei era così in ansia che faceva fatica a mantenere la voce bassa e ferma. La rincuorò che tutti cercassero di dare il meglio di sé per farle fare bella figura. Perfino Charles fece uno sforzo e superò se stesso. Il signor Williams ascoltò con attenzione tutte le interrogazioni mentre fuori il vento soffiava, quando più, quando meno forte, e la neve entrava dalle fessure delle pareti. A un certo punto Charles alzò la mano per chiedere: «Per favore, posso venire a scaldarmi vicino alla stufa?» Laura rispose di sì e si alzò anche Martha senza chiederlo prima. Avevano un libro solo. Quando si furono scaldati le mani, tornarono a posto, in silenzio, senza chiedere il permesso, il che, dal punto di vista della disciplina, lasciava alquanto a desiderare. Poco prima dell'ora di pranzo, il signor Williams disse che doveva andare. Laura chiese, come era suo dovere a quel punto, se voleva dire qualcosa agli alunni. «Sì», rispose lui severamente, alzandosi. Com'era alto! Laura si spaventò. Aveva fatto qualcosa di sbagliato? In piedi il signor Williams arrivava quasi a toccare il soffitto con la testa. Se ne stette lì un momento in silenzio per dare importanza a quello che aveva da dire, poi disse: «Qualsiasi cosa facciate, tenete caldi i piedi». Sorrise agli alunni, sorrise a Laura e, dandole una calorosa stretta di mano, se ne andò. A mezzogiorno Clarence vuotò il secchio del carbone nella stufa e uscì a riempirlo di nuovo. Tornando dentro disse: «Dovremmo metterne altro prima delle 4, la temperatura sta scendendo in fretta». Si riunirono tutti attorno alla stufa per mangiare. Quando fu ora di ricominciare le lezioni, Laura li fece venire lì con i libri. Potete stare in piedi qui al caldo o passeggiare per la stanza come volete, se mantenete il silenzio e riuscite a studiare lo stesso. Possiamo decidere che questa è la regola finché dura il freddo. Funzionò benissimo. Le interrogazioni andarono meglio del solito e tutti si comportarono alla perfezione e riuscirono anche a tenere caldi i piedi. Al manzo dice addio. Quel sabato a casa mamma chiese preoccupata: «Non è che ti stai ammalando, Laura? Non è da te startene lì seduta mezza addormentata?» «Oh, sono un po' stanca, ma non è nulla», rispose lei. Papà alzò gli occhi dal giornale. «Quel Clarence ha ricominciato a fare l'insolente?» «No, pa, è diventato uno studente modello, si comportano tutti al meglio». Non stava mentendo ai suoi genitori, ma il fatto era che non poteva raccontare della signora Brewster e del coltello. Se l'avessero saputo, non l'avrebbero lasciata tornare in quella casa. E lei voleva portare a termine il suo impegno con la scuola. Una maestra non può andarsene prima del tempo, altrimenti avrebbe avuto un giudizio negativo e nessun'altra scuola l'avrebbe mai assunta. Fece uno sforzo per non lasciar trasparire che cascava dal sonno e che aveva paura di tornare dai Brewster. Le restava solo una settimana, ce l'avrebbe fatta. Nel corso di quei 2 giorni il tempo andò migliorando e quando Almanzo venne a prenderla c'erano solo 20 gradi sotto zero. Il vento era cessato e splendeva un bel sole. Tacquero per un po', poi Laura disse: «Ancora una settimana sola, sarò contenta quando finirà». «E non ti mancheranno le nostre corse in slitta?» chiese Almanzo. «Beh, oggi è un piacere», disse Laura, «ma di solito fa così freddo». Immagino che anche lei sarà contento di non dover più fare tanta strada. Non so perché ha deciso di fare tutte queste corse avanti e indietro, se non doveva tornare a casa come me. Oh beh, a volte ci si annoia a non far nulla, rispose Almanzo. Due vecchi scapoli finiscono per intristirsi a stare sempre soli. Ma c'è un mucchio di gente in paese, non dovete mica stare sempre per conto vostro, lei e suo fratello. Boh. Non è più successo niente di interessante in paese dopo la recita scolastica, osservò Almanzo. L'unica cosa che si può fare è andare a giocare a biliardo al saloon, oppure stare lì a guardare le partite di scacchi in una delle botteghe. A volte si preferisce una compagnia migliore, anche se si soffre un po' il freddo. Laura non aveva mai pensato a se stessa in quei termini, ma se lui cercava quello, poteva quantomeno sforzarsi di essere un po' più di compagnia, solo che non le veniva in mente niente di divertente o di interessante da dire. Stette a pensarci per un po', guardando i due cavalli così agili e snelli davanti a lei. Le zampe nervose battevano col ritmo perfetto sulla neve ghiacciata e le loro ombre azzurre correvano accanto alla slitta. Trottavano allegri, scuotendo di tanto in tanto la testa a far risuonare i campanelli, con le orecchie ora puntate avanti, ora tirate indietro, il muso in alto e la criniera lucente che sventolava nel vento della corsa. Allora, prendendo coraggio, esclamò di punto in bianco: "Che meraviglia!" "Che cosa?" chiese al manzo. "I cavalli, li guardi?" In quel momento Prince e Lady si sfiorarono il muso, quasi a bisbigliarsi qualcosa l'un l'altro, poi insieme cercarono di rompere al galoppo. Quando gentilmente ma con fermezza li ebbe riportati al trotto, Almanzo chiese: "Vuoi provare a guidarli?" "Oh!" esclamò Laura. Ma poi si sentì in dovere di aggiungere onestamente: "Papà non mi lascia portare i cavalli, dice che sono troppo piccola e che rischio di farmi male." "Prince e Lady non farebbero mai male a nessuno," disse Almanzo. "Li ho addestrati personalmente, ma se ti sembrano una meraviglia avresti dovuto vedere Starlight, il primo cavallo che ho tirato su. L'ho chiamato così per la stella bianca che ha sulla fronte. Suo padre glielo aveva regalato, che era ancora un puledro, a casa loro nello stato di New York, quando lui aveva 9 anni. Le raccontò che cavallo splendido era e come lo aveva addomesticato e addestrato. Lo aveva portato con sé nel Minnesota e la prima volta che era venuto a Ovest, nelle grandi praterie, c'era venuto in groppa quel cavallo. Starlight aveva 9 anni quando l'aveva riportato Marshall giù in Minnesota. 150 miglia aveva fatto in un giorno solo. E quando erano arrivati era ancora così fresco che si era messo a fare le gare con un altro cavallo. "E adesso dov'è?" chiese Laura. "Al pascolo, nella fattoria di mio padre in Minnesota. Non è più giovane come una volta e qui ho bisogno di una pariglia, così l'ho restituito a mio padre." Il tempo era passato tanto in fretta che Laura si stupì quando vide comparire all'orizzonte la casa dei Brewster. Cercò di non darlo a vedere, ma si sentì prendere dallo sgomento. "Com'è che sembri così abbacchiata all'improvviso?" chiese Almanzo. "Beh, preferirei andare nell'altra direzione." "Quello succederà venerdì prossimo," disse lui, facendo rallentare i cavalli. "Però possiamo andare un po' più piano." Laura capì che lui sapeva, in un modo o nell'altro, quanto detestava entrare in quella casa. "A venerdì, allora," le disse con un sorriso di incoraggiamento prima di ripartire. Un giorno dopo l'altro e una notte dopo l'altra trascorse anche quella settimana, finché non le rimase che una sola notte da passare coi Brewster. L'indomani era venerdì, ultimo giorno di scuola. Passata quella notte e quell'ultima giornata, sarebbe tornata a casa e ci sarebbe rimasta. Aveva una gran paura che succedesse qualcosa quella notte. Continuava a svegliarsi di soprassalto, ma tutto taceva e a poco anche il suo cuore si quietò. Quel venerdì tutti i suoi scolari si dimostrarono particolarmente diligenti, tranquilli e studiosi. Dopo l'intervallo del pomeriggio, Laura li fece tornare a posto e disse che avrebbe finito le lezioni un po' prima perché quello era l'ultimo giorno. Sapeva che si aspettavano un piccolo discorso di chiusura, perciò li lodò uno a uno e disse: "Avete sfruttato bene l'occasione che vi è stata data di imparare cose nuove. Spero che ognuno di voi e ognuna di voi abbiano di nuovo in futuro la possibilità di andare a scuola. Ma se ciò non fosse, potrete sempre studiare da soli a casa, come ha fatto Lincoln. L'istruzione è una cosa per cui vale la pena darsi da fare, e se non c'è chi vi aiuta a ottenerla, ricordatevi che potete sempre aiutarvi da voi se vi impegnate." Poi dette a Ruby uno dei suoi biglietti da visita di cartoncino rosa con un fregio di roselline e fiordalisi attorno al nome. Sul retro aveva scritto: "A Ruby Brewster dalla sua maestra con i migliori auguri. Scuola di Brewster, febbraio 1883." Ne dette uno anche a Tommy e a Martha, Charles e Clarence. Ne furono tutti entusiasti. Li lasciò guardare con calma il disegno e leggere le parole che aveva scritto prima che ciascuno riponesse il biglietto nel libro. Poi disse di preparare libri, lavagnette e matite da portare a casa e per l'ultima volta disse: "Potete andare." Allora Accadde una cosa che la sorprese moltissimo. Invece di vestirsi e uscire di corsa come gli altri giorni, vennero tutti lì intorno al suo tavolo. Marta le diede una bella mela rossa. Ryubi le offrì timidamente un dolce che la mamma aveva fatto apposta perché lei potesse regalarlo alla maestra. Tommy, Charles e Clarence le regalarono una matita nuova a ciascuno, a cui Clarence aveva fatto la punta. Non sapeva che dire per ringraziarli, ma Marta la interruppe. Ci tocca a noi, cioè voglio dire, tocca a noi ringraziarla, signorina Ingalls. Grazie per avermi aiutata con la grammatica. E Ryubi disse: Grazie, signorina Ingalls. Mi spiace che non c'è la glassa sopra. I maschi non dissero nulla, ma quando ebbero salutato e furono usciti, Clarence tornò indietro. Venne accanto al suo tavolo e con gli occhi sul berretto che teneva in mano mormorò: Mi spiace di essere stato così cattivo. Ma che dici, Clarence? Non ha nessuna importanza, esclamò Laura. E poi sei stato un ottimo scolaro, sono fiera di te. Clarence le lanciò una delle sue occhiate sbarazzine piene di allegria e schizzò fuori, sbattendo la porta così forte da far tremare tutta la baracca. Laura pulì la lavagna e spazzò il pavimento, mise in ordine libri e fogli di carta e chiuse le ventole della stufa. Poi si vestì e andò alla finestra finché non sentì i campanelli della slitta. E non vide Prince e Lady fermarsi davanti alla porta. Era finita! Tornava a casa! Aveva il cuore così leggero che si sarebbe messa a cantare con i campanelli se avesse potuto. E per quanto andassero veloci, i cavalli quel giorno le parvero più lenti del solito. Non arriverai più presto, anche se spingi coi piedi, disse al manzo a un certo punto. E lei scoppiò a ridere perché era vero. Puntava coi piedi contro il fondo della slitta, quasi volesse farla andare più in fretta. Ma per il resto del tragitto al manzo non parlò quasi, e neanche lei. Solo dopo averlo ringraziato, avergli augurato come al solito la buonasera ed essere entrata in casa, mentre si toglieva il cappotto, Laura improvvisamente pensò che al manzo non le aveva detto arrivederci a domenica pomeriggio, come tutte le altre volte. Aveva detto addio. Certo, era giusto così, perché quella era l'ultima volta che la portava a casa in slitta.